scala, luna bianca mandala. Partirà così, finirà così. Ma giura che non mi dirai se la vi. Dai vicoli allo skyline, fino a qui, via così. Get to shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio dove ti vorrei incontrare. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale, e poi scendo giù nel mare, che hai dentro ma mi perdo tra infinite scale, che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Pioverà sopra le tue labbra desertiche, ti ritroverai in un attimo in un enigma di chirico, ubriachi in un attico per strada, luce verde di giada. Partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi. Dai vicoli allo skyline, fino a qui, via così. Get to shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio dove ti vorrei incontrare. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale, e poi scendo giù nel mare, che hai dentro ma mi perdo tra infinite scale, che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Senza me tu senza me tu non esisti ancora. E poi scendo giù nel mare, che hai dentro ma mi perdo tra infinite scale.